Io lavoro come fotografo documentarista e in questi giorni appunto sto documentando i lavori di ripristino sia a Cesena, che è la mia città natale, e a Forlì, che è la città dove vivo oggi. Ieri, girando in uno dei quartieri più colpiti di Forlì, il quartiere Romiti, mi è capitato di incontrare un'estrema varietà di persone di tutte le età, di tutti i tipi, che collaboravano appunto per ripristinare le case, le cantine, le abitazioni in generale, e fra questi a un certo punto ho notato una lunghissima catena di persone che si passavano dei secchi nel tentativo di svuotare un cortile dal fango, e all'interno di questa catena c'erano 20 o forse più persone di origine africana. E quindi questa cosa mi ha incuriosito, anche perché non erano i primi che vedevo, però vederne così tanti tutti nello stesso punto era curioso. E quindi la situazione mi ha incuriosito, mi sono avvicinato, ho fotografato e a un certo punto ho anche iniziato a domandare, cercando di non intralciare i lavori, e ho individuato praticamente Abdul, che è un ragazzo che vive in questo condominio, il quale mi ha raccontato che, siccome molti degli abitanti del condominio sono anziani e quindi hanno difficoltà a svolgere queste operazioni faticose e prolungate per pulire il cortile e le altre aree, ha pensato di chiamare i suoi amici che abitano a Forlì e dintorni, e quel giorno appunto erano arrivati una ventina di suoi amici, tutti ragazzi giovani e del Senegal, che hanno aiutato appunto gli abitanti del condominio, assieme anche ad altri volontari giunti da altre città, nei lavori di ripristino. Questa cosa mi ha fatto molto piacere, anche perché con le foto che ho realizzato, in qualche modo nel mio piccolo ho smentito alcune convinzioni che avevo letto in giro, secondo le quali appunto gli stranieri, in particolare i migranti, non stessero fornendo nessun tipo di aiuto. E questa cosa io sapevo non essere vera, sia perché li avevo già visti nei giorni scorsi, e sia ovviamente perché ho raccontato questa situazione, che è evidente quanto questa fosse una fake news o una volontà di raccontare qualcosa che non corrisponde alla realtà. Più in generale, l'atmosfera in questi giorni tra le persone che appunto stanno dando una mano com'è? Ma allora, io anche se può sembrare strano, ho trovato molto entusiasmo da parte di volontari e molta determinazione da parte degli abitanti appunto di queste case che sono state travolte da questa massa d'acqua senza precedenti. E quindi poi sarà che da un lato ha anche smesso di piovere, quindi per fortuna è uscito il sole, che sicuramente aiuta anche nell'evitare che si accumuli altra acqua, e ho trovato quindi un'atmosfera positiva, appunto con un entusiasmo che può sembrare strano da trovare in queste situazioni, ma in un certo senso è contagioso, e secondo me fa anche bene alle persone colpite più pesantemente, per ritrovare la speranza e per ripartire. E in queste scene, come dire, di mutuo aiuto, secondo te si sta un attimo rinsaldando anche il legame sociale tra le persone? Secondo me sì, è un po', forse dico una cosa un po' triste, ma nelle difficoltà purtroppo occorre sempre qualche problema per ricordarci cos'è l'umanità, cos'è l'aiutarsi a vicenda. A volte ci dimentichiamo di quanto in realtà siamo simili e abbiamo bisogno l'uno dell'altro.